Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parte positiva, anche se non tantissimo, la settimana per la borsa, più 0,8% Milano, più 0,3% Parigi, più 0,5% Francoforte e ancora Londra, più 0,9%. L'America è leggermente, ma poca cosa, positiva, più 0,1%. Le notizie oggi sui mercati riguardano più che altro petrolio ed euro, ma finisco con la borsa dicendo che il miglior titolo in questo momento è Bulgari, più 3,5%, A2A più 2,4%, Saipem più 2%, Luxottica più 1,90% come stima Microelectronics, Buzzi Unicem più 1,80%, Le CIR più 1,6 come Exor ed Eni, ma anche la Popolare di Milano, 1,5% rialzo di Mediobanca e di Unipol, l'1,3 quello delle Campari, di Italcementi e delle Generali. Fronte opposto, Prismian meno 1, Parmalat meno 0,4 come Ansaldo. Dicevamo dell'euro, è in continuo indebolimento a 1,464, arrivato anche vicino a quota 1,45, soprattutto è in calo il petrolio. Questa è una buona notizia, anche se i ribassi del prezzo della benzina, ripeto, noi immaginiamo sia solo una coincidenza, arrivano dopo i rincari massimi durante il ponte dell'8 dicembre, anche qui sempre coincidenze, però ondata di ribassi oggi per la benzina durante il fine settimana. Agip e Erg l'hanno portata sotto l'1,3 euro al litro, un centesimo su benzina e gasolio, 1,299 per la benzina, 1,139 euro per il gasolio. Il petrolio, dicevo, aperto in calo a $69 al barile. I temi di cui ci occuperemo oggi riguardano, da un lato, questa polemica, strascico sui rincari invece dei prezzi ferroviari, i prezzi del biglietto ferroviario più 20% nell'alta velocità in molte tratte seconda classe, stiamo parlando la Milano-Torino più 30% dal 13 dicembre, la Napoli-Torino più 27% sempre in seconda classe dopo il 13 dicembre, con l'inaugurazione effettiva e completa dell'alta velocità, in media un 20% di rincari in seconda classe, più contenuti rincari in prima classe. Si cerca di capire quanto siano giustificabili tutti questi rincari, fermo restando che era più o meno ovvio e immaginabile che un po' di più si pagasse con l'inaugurazione dell'alta velocità. E poi il tema invece di pendolari e intercity. Questo in apertura, ricorso infatti al TAR dell'Associazione dei Consumatori sui prezzi dei biglietti. Poi ci occuperemo come sempre di borsa, avremo un approfondimento anche per quello che riguarda il Dubai. Oggi la buona notizia infatti riguarda l'andamento record della borsa, chiuso con un più 10% dopo un annuncio in cui le autorità di Dubai pagheranno il debito di 4 miliardi di dollari del gigante immobiliare, quello in difficoltà, a rischio crack, Nakheel, dopo aver avuto un aiuto da 10 miliardi di dollari da Abu Dhabi, l'emirato vicino e a questo punto ricco, quello che si sta di fatto salvando Dubai e in parte anche se la sta comprando. 349-238-6666 per gli sms, dicevo, le altre notizie in breve. Sempre sul fronte internazionale, oggi è arrivato il dato europeo sulla produzione industriale. Dopo sei mesi di continui rialzi mese su mese è arrivata una gelata, meno 0,6% nella produzione industriale nel mese di ottobre nell'area euro. I peggiori, il motivo comunque si chiama Germania, meno 1,8% mese su mese, meno 1% la Francia. L'Italia, bene, invece ha fatto un più 0,5% mese su mese, veniva, lo ricordo, da un meno 5% da settembre su agosto, ottobre su settembre invece ha fatto un più 0,5%, in media il calo rispetto all'anno prima nella produzione industriale è dell'11%. E continua l'emorragia di posti di lavoro in Europa a causa della crisi economica, e qui purtroppo nemmeno l'Italia si distingue. Meno 0,5% l'occupazione nel terzo trimestre del 2009, oltre 1 milione di posti di lavoro persi in tutta Europa, di cui 700.000 nella sola area euro. In Italia appunto ha fatto meno 0,5% l'occupazione, meglio è andata invece in Francia, meno 0,2%, e molto meglio anche in Germania, meno 0,1%. Il paese che ha messo peggio sul fronte della disoccupazione si conferma la Spagna, 1,5% nel terzo trimestre di calo. E aumenta anche la disoccupazione dell'intera area OCSE all'8,8%, in Italia a ottobre ha fatto l'8% contro il 7,8% di settembre. Spostiamoci adesso all'Italia in senso stretto, perché oggi da un lato sono arrivate nuove conferme, anche se non ufficiali, di una praticamente forte adesione allo scudo fiscale. Dovrebbero essere rientrati già tra i 100 e i 110 miliardi di euro, e ancora tra l'altro si sta ancora ragionando sulla possibile riapertura dei termini, perché molti clienti, molti filiali delle banche o delle SGR lamentano difficoltà tecniche nell'operazione. Si sta ragionando se però portare una riapertura dei termini possa portare anche a un'aliquota più alta, non più il 5%, ma tra il 6% e il 7%. Nel frattempo non si ferma la crescita del nostro debito pubblico. Secondo la Banca d'Italia ad ottobre ha raggiunto quota 1.800 miliardi. Stiamo parlando di un livello altissimo, superiore ai 1.786 miliardi di settembre, quindi 24-25 miliardi in più. Per fortuna le entrate tributarie sono cresciute a ottobre a 28,4 miliardi, e se da un lato la fase negativa per il settore immobiliare, lo dice sempre la Banca d'Italia nel suo bollettino, si sta un po' attenuando, anche se le prospettive restano incerte, aumentano le famiglie italiane in sofferenza per il pagamento dei mutui per la casa. Praticamente l'1,5% delle famiglie consumatrici contro lo 0,9% dello stesso periodo del 2008. Allora, in netto rialzo anche, giustamente me lo fate notare, la borsa greca più 2,6%, sopra di nuovo i 2200 punti, dopo che il premier greco Papandreou ha detto che proteggeranno comunque i salari medio-bassi. Nel frattempo salvataggio in extremis da parte dello Stato austriaco per la banca della Carinzia, Hypo Alpe Adria, che sarebbe fallita per ambigui affari, qui la crisi c'entra un po' meno, nei Balcani, Croazia, Slovenia, Bosnia e Serbia. E andiamo allora al primo tema di apertura: alta velocità, e questo ci fa piacere, c'è chi dice però anche alti prezzi. Eh sì, perché con il 13 dicembre Santa Lucia parte il nuovo orario delle ferrovie dello Stato, il primo con la linea ad alta velocità completata da Torino a Salerno, che conta praticamente 1.000 chilometri di linee veloci. Taglio dei tempi di percorrenza, corse più frequenti e però anche il rincaro dei biglietti. Dicevamo dal 10 al 15%, ma nella seconda classe ci si avvicina al 20% di media come aumento. Allora parliamo del rincaro dei biglietti. Ne parliamo con, da un lato, il direttore della media lunga percorrenza di Trenitalia e quindi responsabile anche di tutta l'alta velocità, dottor Gianfranco Battisti. Buonasera e grazie. Buonasera a voi. E dall'altro col presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Allora, dottor Battisti, iniziando con lei, era immaginabile, insomma, che ci fossero dei rincari, però insomma, a parte la prima classe rincara molto meno, il 5% in media, ma dall'altra parte abbiamo sulla seconda classe la tratta Roma-Milano più 18%, Milano-Torino più 30%, cioè si va da 23 a 31 euro, la tratta Napoli-Torino più 27%, da 107 a 137 euro, Roma-Venezia, mi scusi, più 20% quasi, da 61 a 73 euro. Domanda: perché è rincarata anche la tratta Milano-Bologna, che era già operativa? Beh, semplicemente perché abbiamo più treni. Lei pensi che solo da Roma a Milano abbiamo il 40% in più di offerta e quindi di conseguenza anche sulla Milano-Bologna e o viceversa. Quindi l'aumento dei treni porta anche a un aumento del costo della singola tratta? Evidentemente c'è più frequenza, ci sono più servizi che offriamo al cliente. Le immagini che avendo 72 treni, quasi un treno ogni quarto d'ora, ne faccia maggior domanda. È chiaro che per noi comporta evidentemente un impegno molto importante anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Ecco, sempre su questo fronte si fa notare che avete eliminato alcune offerte che erano presenti prima. Per esempio, da ieri non si ottiene più una riduzione del 5% dell'acquisto, per l'acquisto online via internet del biglietto, oppure la riduzione del 60% per l'acquisto del biglietto dell'alta velocità almeno un mese prima. Guardi, non è proprio così, perché abbiamo introdotto un nuovo sistema di prezzi molto più competitivo. Addirittura lei pensi che diamo 100.000 posti in offerta al mese per il prezzo a 48 euro. È sufficiente prenotarsi entro i 48 euro prima e pagherà sull'intero network dell'alta velocità 48 euro. Abbiamo introdotto altre offerte molto forti, ad esempio una companion sulla Torino-Milano, si viaggerà in due e si pagherà in uno, e poi c'è uno sconto che va dal 15 al 30% in relazione dell'anticipo di acquisto, quindi è sufficiente prenotarsi con anticipo, per cui lei accederà a uno dei due sconti che abbiamo messo in maniera strutturale. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo favorito anche quelli che sono i nostri frequent travel con un carnet dove è sufficiente viaggiare 8 volte per ripagarsene praticamente 10 volte per pagarne 8. Allora, altra cosa, poi passiamo anche alle tratte lunghe percorrenza, ma non alta velocità. Fermo restando che io trovo meritorio, l'abbiamo detto più volte, insomma, la velocità e i tempi di percorrenza raggiunti ormai, cioè il fatto che si riesca a andare in non solo a aver ridotto il tempo di collegamento, ma anche il numero di frequenze, 72 corse al giorno tra Roma e Milano, di cui 28 in meno di 3 ore. 26 collegamenti tra Roma e Venezia in 3 ore e un quarto, 4 veloci in 3 ore e un quarto, 6 treni tra Roma e Verona, e va bene, però con appunto la Bologna-Firenze in 37 minuti, Roma-Torino in 4 ore e 10 minuti, 1 ora e 10 Roma-Napoli, però c'è chi fa notare che anche nelle offerte che voi fate, il prezzo minimo per una Milano-Roma, sfruttando l'offerta, è di 48 euro, mentre per l'alta velocità in Francia o in Germania, vedi la Monaco-Hannover o la Parigi-Valence, si paga quasi la metà. Allora, intanto aggiungerei alla sua premessa sulla quantità di offerta che abbiamo messo qualcosa che non ha citato, e che è il raddoppio dell'offerta per il sud. Sì, abbiamo portato il Freccia Argento a Bari raddoppiando la frequenza. Siamo passati da 2 a 4 coppie, soprattutto sulla relazione velocizzata a Roma-Bari a 3 ore e 59. Lo stesso stiamo facendo per la Calabria, dove già nei prossimi mesi introdurremo un ulteriore treno che ha come hub la Mezzia, sempre a 3 ore e 59. Quindi direi che è un elemento non trascurabile. Per quanto riguarda il sistema di offerte, direi che noi siamo sicuramente all'avanguardia a livello europeo, abbiamo fatto un benchmark, per cui le posso già garantire che abbiamo un sistema di prezzi estremamente flessibili e sicuramente molto più competitivi rispetto a quelli che sono i prezzi standard di riferimento delle altre reti europee. Allora, ultima domanda, però le chiederei anche di ascoltare cosa ci dirà, visto che ci ha appena raggiunto in collegamento anche il presidente di Codo con Carlo Rienzi. Ultima domanda, dottor Battisti, lei è responsabile non solo dell'alta velocità, ma anche di tutto il tratto, delle tratte, mi scusi, a media e lunga percorrenza di Trenitalia. C'è la sensazione che non solo i pendolari possano restare un po' indietro, in quanto quella è una rete meno profittevole, e segnalo che oggi per i pendolari che abitano a Londra è iniziata una nuova vita, praticamente Javelin, il treno delle meraviglie, correrà sui binari per i pendolari a 225 km all'ora, quindi cambia la vita anche per i pendolari di Londra, ma c'è la sensazione che vengono un po' trascurate altre tratte importanti, non so, le tratte ex Intercity che si chiamano Eurostar City, non so, Milano, Brescia, Verona, Venezia, sono tratte in cui obiettivamente investimenti non se ne vedono, sono scomparsi anche i servizi che prima esistevano. Beh, non è proprio così, guardi, mi lasci dire. L'Eurostar City è un oggetto di invasivo in processo di investimento da parte nostro. Uno dal punto di vista della riqualificazione del materiale e dall'altro per quanto riguarda le velocizzazioni. Tenga conto che quest'anno abbiamo velocizzato la linea adriatica cercando di migliorare, questo succederà anche nei prossimi mesi, di migliorare quello che è il livello di servizio che offriamo su queste relazioni. Stessa cosa sulla Tirrenica, dove abbiamo sì soppresso qualche fermata, ma tutto a vantaggio dei tempi di percorrenza. Per cui riduciamo in maniera significativa i tempi di percorrenza anche su queste linee. Non trascurabile poi è la linea trasversale tra Milano e Venezia, dove anche lì riduciamo in maniera significativa i tempi di percorrenza. E tenga conto che in questo modo andiamo a rispondere a una precisa esigenza della nostra clientela, che è proprio quella di accorciare i tempi di percorrenza su questi grandi hub, ed è quello che stiamo percorrendo. Pensi che abbiamo analizzato addirittura l'attrattività dei singoli bacini prima di mettere in piedi un nuovo sistema di offerta. Allora, io so che lei non si occupa, non è responsabile dei treni regionali, ma se vuole darmi una risposta, non c'è il rischio che in questo i pendolari già non ben trattati, me lo lasci dire, né dalle FS né dalle Ferrovie Nord in generale lamentano ritardi continui, un incubo arrivare in lavoro in orario, ma vengono ancora più, diventano ancora più così i figli di un dio minore? Ma guardi, questo poteva essere un rischio, ma in realtà non è così, perché intanto il nostro sistema della media e lunga percorrenza e con l'alta velocità non intacca assolutamente il sistema di offerta del trasporto regionale. Poi per quanto riguarda il trasporto regionale stiamo pagando ancora un mancato periodo di investimenti sia sul materiale e sia su quello che poi è stata di fatto l'esponenziale crescita di domanda soprattutto sui nodi metropolitani. Ma attenzione, c'è il piano di investimento che è partito circa un mese e mezzo fa, anzi qualcosa di più, che prevede l'acquisto di locomotori, alcuni sono già stati avviati, altri sono in corso di assegnazione, avremo i primi risultati ovviamente, non essendo il prodotto ferroviario un prodotto che si può acquistare su disponibilità, avremo i primi risultati ovviamente tra due o tre anni, ma le assicuro saranno risultati concreti, perché il piano di investimento è davvero davvero molto forte, sono circa 2 milioni di euro che insomma vanno sicuramente destinati a quella a migliorare la qualità di vita dei pendolari. Allora io me lo auguro. Le do un dato, è aumentata negli ultimi 2 anni del 10%, siamo a circa 3 milioni di pendolari che utilizzano giornalmente i nostri treni. Sì, io me lo auguro che gli effetti si vedano, perché quello che voi chiamate materiale rotabile, cioè i vagoni, la qualità per i treni pendolari è oggettivamente non da sesta economia del mondo, me lo lasci dire. Chiaramente non è per lei la critica, la giro direttamente al dottor Moretti, no? Molte volte nostro ospite. E per quello che riguarda gli Intercity Eurostar, lì invece se ne occupa lei, io la invito a controllare meglio, perché ogni tanto io che lo prendo per lavoro, insomma, il servizio è così, è lacunoso in più parti, avete eliminato a mio avviso alcuni servizi importanti, ma non voglio entrare in polemica con lei, penso semplicemente al fatto che se uno prende un treno a Milano o a Venezia alle 7 di sera non trova neanche un vagone ristorante, trova forse un carrello con quel poco che... Ma lasciamo stare questo, vorrei restare sui prezzi dei biglietti, se no allarghiamo troppo. Allora, Presidente del Codo, con Scalo Rienzi, mi faccia a questo punto fare l'avvocato del diavolo al contrario. È innegabile che se c'è un investimento di mercato su una tratta ad alta velocità in cui le FS non ricevono un euro dallo Stato, quindi devono ripagare questo investimento con i biglietti, e sappiamo che da noi per vari motivi fare i chilometri di alta velocità costa il triplo che in Francia e il quadruplo che in Spagna, è chiaro che questo servizio in più va fatto pagare, o no? Sì, però lei parla di mercato, perché è un mercato economista. Ma qual è il mercato ferroviario? È un mercato assolutamente monopolista. Le tratte ferroviarie sono tutte di Trenitalia, per quanto si sia imposta già dall'Europa la liberalizzazione. Allora, che mercato è? Se io devo per forza andare, come dice Trenitalia, sull'alta velocità e spendere questa cifra iperbolica, non è un mercato. Loro che cosa hanno fatto? Una manovra da tempo. hanno eliminato i treni cosiddetti più lenti, prima i diretti, poi gli espressi, poi gli intercity, che hanno chiamato Intercity Plus per far pagare di più, poi hanno messo gli Eurostar al posto degli intercity, adesso hanno tolto gli Eurostar e messo l'alta velocità, alla fine noi dobbiamo per forza andare sull'alta velocità. Quindi che mercato è? Se tu mi dai la possibilità di scegliere tra un diretto, un interregionale e un'alta velocità, io sono libero, voglio impiegare un'ora in più, non ho fretta e vado. Ma praticamente tu adesso mi costringi ad andare a quello che è un prezzo di mercato, tra virgolette, che è un mercato obbligato, un mercato dove io non ho nessuna scelta. Finché non verranno i tedeschi, gli spagnoli, gli austriaci a mettere i loro treni sulle nostre tratte ferroviarie e finirà il boicottaggio di Trenitalia per allargare il mercato veramente alla concorrenza, è un mercato da far ridere. Quindi noi siamo così, addirittura loro hanno talmente la faccia tosta che nemmeno si preoccupano della concorrenza dell'aereo. Lei pensi che per andare da Roma a Malpensa ci vuole un quarto di quello che costa il treno da Roma a Milano, eppure da Roma a Malpensa ci mette 45 minuti l'aeroplano. Certamente Scusi, devi andare all'aeroporto, poi devi prendere l'aeroporto. Scusi Renzi, ma se fosse così si farebbero un danno da soli. Adesso faccio parlare anche Battisti. No, non se lo fanno perché sulla linea ferroviaria non c'è concorrenza. Cioè, ho capito, ma prenderai la concorrenza è solo tra un tipo di trasporto e l'altro, aereo o treno. L'italiano preferisce il treno, perché? Perché non ci sono le infrastrutture da Malpensa al centro di Milano, perché per Linate c'è un'altra situazione monopolistica per cui il biglietto Roma-Linate costa 250 euro e quindi non conviene più, ma conviene il treno. Quindi c'è tutto un gioco di monopoli, sì, però, mi scusi, incrociati. Io ho capito bene, allora, intanto non si può dare la colpa alla FS se i vari NTV e altre cordate non sono ancora operative sulla rete a alta velocità. Arriveranno e lì c'è una direttiva europea. Però io dico, nel momento in cui io riduco i tempi di percorrenza come hanno fatto loro, per cui su Roma-Torino un'ora e mezza in meno e citiamo un'ora e dieci Roma-Napoli, vabbè, e di un'ora anche Roma-Milano in meno, è ovvio che questo servizio qui qualcosa in più va a costare, Renzi, non possiamo dire... Ma chi se lo può permettere questo servizio? Ma se fossero così però andrebbero... I professionisti, ma se una persona normale vuole andare a trovare i parenti a Milano o a Torino, ma lei sa che ha probabilmente una sola possibilità di prendere un treno normale e pagare di meno, ho capito che per andare da Palermo a Catania, che non è pendolari, perché per cortesia non mi dite che Palermo-Catania è una linea di pendolari, ci vogliono 6 ore e 22 minuti per fare 210 chilometri, ma perché i siciliani che sono figli di un dio minore, allora dobbiamo chiamare pendolari per forza. Un attimo, perché sulla situazione della rete ferroviaria siciliana tanto noi ne abbiamo parlato, che abbiamo detto che non ha senso spendere soldi per il ponte sullo stretto finché tu non sistemi la Messina Palermo, e quello è un assurdo. Ma restiamo sul tema dell'alta velocità. Allora, dottor Battisti, io ho capito tutte le vostre e trovo che anche siano immaginabili, però se ho ben capito l'obiezione del Presidente del Collo, come si dice, voi non date altre alternative, cioè datemi la possibilità di arrivare da Milano a Roma nelle vecchie 5 ore, io a quel punto deciderò se spendere le nuove tariffe sul Milano Roma, che sono 89 euro in seconda classe, oppure i vecchi 75, cioè lì a quel punto decido io, no? Senta, dottor Barisone, lei intanto ha già anticipato una delle risposte, che era quella del mercato monopolista, è stato talmente chiaro e ha detto, intanto non è colpa di Trenitalia, ma intanto dal 2010, tra pochi giorni, il mercato sarà liberalizzato e quindi questo tema che pone il dottor Renzi credo che decada velocemente. Secondo, ha detto anche un'altra cosa molto importante, cioè l'alta velocità non si può immaginare che si possa ripagare da mercato, per carità, però ovviamente i prezzi devono essere adeguati. Lei pensi al beneficio che sta portando l'alta velocità in termini di ambiente, meno inquinamento, velocità, dei grandi centri urbani si accorciano le distanze. E poi un'altra obiezione che mi sento di fare al dottor Renzi è quella che dice è per pochi. Non è assolutamente così, perché abbiamo portato 12 milioni di passeggeri, di clienti, meglio dire, dal 13 dicembre dello scorso anno ad oggi, e che è qualcosa di molto molto significativo. E gli posso anche dire che non sono solo professionisti, ma il 28% ad esempio si muovono per leisure, per vacanza, ci sono pendolarismo anche di persone che non sono necessariamente professionisti, perché mettiamo in piedi degli abbonamenti molto convenienti tra le grandi città, per cui insomma generiamo comunque una mobilità che favorisce tutto l'intero sistema logistico italiano. Quindi, e poi mi permetta di dire, in quel 28% di clienti che trasportiamo al segmento leisure, molti sono stranieri e credo che siccome io ho capito le vostre, cioè ho già risposto a Renzi, però su una cosa sono d'accordo con il Presidente dell'Accordo, non per fare il cerchio bottista, cioè avete eliminato come possibilità quella di prendere anche treni lenti, cioè se voi mi obbligate, sarebbe come se una compagnia mi dicesse tu fai il Roma-Milano solo con un jet super veloce, okay, e ci metti 20 minuti. Io ti dico no, ma a me basta anche il vecchio MD80, è scomodo, okay, pagherò. Ci sono anche intercity, ma ovviamente dal momento che c'è una struttura, un'infrastruttura che consente di arrivare 3 ore prima rispetto a un treno tradizionale, non vedo qual è il segmento di clientela così sensibile a voler viaggiare più scomodi, magari con tempi di percorrenza più del doppio. È chiaro che stiamo puntando a migliorare tantissimo quello che è il servizio su una nuova rotta, che è quella dell'alta velocità. Di conseguenza c'è anche un beneficio su quelle che sono le rotte tradizionali, perché insomma aiutiamo il pendolarismo di breve percorrenza. Ma se io volessi fare, mi scusi, così capisco anch'io, se io volessi fare Milano-Roma o la nuova tratta Venezia-Roma non con l'alta velocità, potrei, mettendoci il doppio probabilmente. Sì, no, ci sono degli intercity che le consentono di fare. Cambiando Firenze, e lì pago meno. Paga meno, certamente, paga meno, okay. Se vuole io adesso posso... No, vabbè, a me basta sapere... Paga meno, però voglio dire, ma è nella logica delle cose c'è... No, ma la logica delle cose l'ho capita, è ovvio, poi sì, io sono veramente, lasci fare, un pensionato, una persona che non ha fretta di arrivare giù, devo andare a trovare i miei parenti, ci metterò 5 ore, leggerò qualche libro in più, però voglio pagare poi, meno. Poi mi lasci dire ancora una cosa, dottor Barisone, a proposito di prezzi, guardi che sono 350.000 le promozioni che mettiamo ogni mese a disposizione dei nostri clienti. L'aereo, quando fa il sistema di promozioni, arriva a sì e no ad un numero talmente esiguo che non c'è confronto rispetto alle nostre promozioni. Chiaro. E questo è molto importante dirlo, perché quando si dice che costa troppo non è proprio così, perché c'è gente che ieri ha viaggiato con, a parte che era la giornata di festeggiamento, di celebrazione, abbiamo portato i nostri clienti a Torino con 4,10 euro, i treni erano strapieni, abbiamo portato i nostri clienti con 2 ore, a 2,59 euro, con 2,59 euro a Milano, ma con 2 euro mi sembra assolutamente sostenibile. Adesso io vorrei chiedere anche dopo il metro pubblicità al Presidente di Codacons anche di questo tema, cioè delle promozioni da un lato, del fatto che se uno vuole ci può mettere 5 ore. Io so che voi siete tutti quanti in sala di controllo perché è il primo giorno lavorativo in cui i treni vanno ad alta velocità. Se lei, dottor Battisti, può restare, ci fa un favore, altrimenti si deve tornare al centro operativo. Qualche secondo, così poi okay. Se c'è qualche altra domanda rispondo. Allora, 2-3 minuti di metro e pubblicità e poi a Carlo Rienzi, Presidente di Codacons, gli sconti e promozioni, perché in realtà Battisti mi conferma che i biglietti promozioni saranno 350.000 al mese. Guardi, mi occupo proprio dell'alta velocità, lei lo sa, per cui le posso garantire, sono 350.000 i posti in promozione che tutti i mesi mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Allora. Overall su tutto il sistema dell'offerta. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, tema rincaro dei biglietti ferroviari e soprattutto quello che ha messo la discussione con il responsabile per le ferrovie dello Stato dell'alta velocità della linea media e lunga percorrenza e il presidente di Codacons che ha annunciato ricorso al TAR, Carlo Rienzi, è più che il rincaro dei biglietti, a mio avviso, ripeto, è inutile che mi accusiate a 349-238-6666 di difendere le ferrovie dello Stato. Ho detto solo che se tu fai un investimento e un servizio me lo fai pagare e mi dai un servizio migliore perché ci metto un'ora in meno, un'ora e mezza in meno a fare una tratta, è immaginabile che questo servizio lo debba pagare. Altra cosa è invece quello che ha detto Rienzi prima, adesso vorrei però che rispondesse al dottor Battisti: se tu mi obblighi a prendere l'alta velocità per fare Milano-Roma o Torino-Milano o Venezia-Roma, a quel punto mi obblighi a pagare di più e basta. Dottor Renzi. Sì, allora, a me veramente fa sorridere, perché non voglio piangere, ma com'è possibile venire a una radio seria come la vostra e negare una realtà? Io ho davanti l'orario ferroviario. Bene, da Roma a Milano ci sono tre intercity su 40, 48 frecce azzurre, rosse e quello che ti pare. Mi dite dove si viaggia come carri bestiame, perché naturalmente sono gli unici tre treni, uno la mattina, uno a mezzogiorno, uno alle 4, dopo le 4 basta, sei costretto ad andare sull'alta velocità, dove tutti quelli che non si possono permettere l'alta velocità pagano la metà, perché 44 euro costa la seconda classe rispetto agli 89 dell'alta velocità, e riescono ad andare da Roma a Milano. Ma sapeste come viaggiano questi poveracci su questi tre intercity? Allora, che scelta ho? Io personalmente non ci posso andare, non ci andrò mai su intercity, perché mi devo impiccare a qualche bagno per poter sopravvivere e arrivare fino a Milano. Questo è lo scandalo. Questi fanno finta di fare nuovi servizi, ma in realtà eliminano i servizi universali. È un servizio pubblico che dovrebbe essere a disposizione del povero, del medio, del ricco. Adesso la gente si sta impoverendo e li mandano su quei treni veloci a prezzi iperbolici, perché altrimenti devono andare a piedi, in carrozza o con l'aeroplano. Ma questo è folle. Allora, tre intercity. Mi risponda su questo il signore delle ferrovie. Mi dica perché quando i pendolari entrano a Roma perdono 30 minuti per entrare a Roma a causa dell'alta velocità. Ma che sono, figli del Dio minore, come ha detto lei? Ma c'ha presente nel nodo milanese o da Roma alla Dispoli le sofferenze di chi lavora tutte le mattine e si alza alle 5:30 per arrivare a Roma? Noi abbiamo fatto, sul mio blog c'è un questionario per tutta questa gente, si vada a leggere le sofferenze che fanno sul blog. Allora, d'accordissimo, una class action contro Trenitalia, perché sta facendo il servizio di lusso soltanto per i ricchi, allora. È chiaro? Ma questo non lo può fare. Allora, con ordine, Renzi, non confondiamo le due cose. La tratta pendolari e la tratta che è servizio pubblico viene finanziata da regioni, dallo Stato, e lì ci sono gli accordi regionali. Detto ciò, abbiamo chiarito in ogni modo possibile che il servizio offerto in questo paese per i pendolari non è degno di un paese che dice di essere la sesta economia al mondo, e su questo non ho dubbi, vale per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie nord e per le altre reti. Chiuso. E però noi stiamo parlando di alta velocità e dei rincari dei biglietti, non possiamo allargare il tema anche alla tratta dei pendolari. Dottor Battisti, le do chiaramente diritto di replica. Sì, con piacere. Per poi concludere. Allora, il punto mi sembra questo, perlomeno io la vedo così. A mio avviso corretto che vi siano stati degli aumenti, corretto, insomma è immaginabile, del 20-30% in seconda classe, meno in prima, perché il servizio offerto è migliore. Se però, un po' come una linea aerea, se tu decidi come linea aerea di darmi solo un tipo di servizio e io non ho più il low cost, beh, a quel punto mi obblighi a viaggiare. Non si riesce a aumentare questi, perché obiettivamente tre treni risulta anche a noi, okay. da Milano a Roma, e le dico, insomma, dalle 7 di mattina fino alle ore, perché ho sotto mano anch'io l'orario, così non dico cavolate, fino alle 10:50 sono tutti frecce rossa, poi ce n'è uno alle 10:50, uno alle 11:30 e poi uno nel pomeriggio. Un po' pochini, diciamo tre treni, per poter dire hai l'alternativa rispetto all'alta velocità. Allora, provo a darle subito una risposta, dottor Barisoni, e quindi la do anche al dottor Renzi. Allora, è molto semplice, gli intercity sono tre, è proprio vero, ma sa quant'è la percentuale di occupazione di questi intercity? È mediamente del 50%, quindi per essere precisi ho qua i dati qua davanti, è il 58% l'occupazione media di questi treni. È anche vero che costano 44 euro, però ci mettono 6 ore e 43 contro praticamente più del doppio dell'alta velocità che si può prendere a 48 euro, quindi con soli 4 euro in più lei prende l'alta velocità, quindi le ho fatto una fotografia. Poi non risulta assolutamente così che ci vogliano più di 30 minuti per entrare nelle stazioni per favorire l'alta velocità, glielo posso smentire in qualsiasi momento, anche con gli aspetti tecnici. Poi le posso anche dire che su Milano non c'è solo l'Intercity, i tre Intercity, ma ci sono anche due Eurostar City, E poi, per cui insomma gli elementi ci sono tutti, sia lato offerta sia lato convenienza del prezzo, per cui noi diamo ampia scelta ai nostri clienti, al nostro mercato, sia viaggiare magari con tempi più lunghi, sia con prezzi comunque, allora, competitivi. In questi casi il ruolo di chi vi parla è sempre difficile, perché giustamente ognuno viene ospite in trasmissione per sostenere le sue tesi, ci mancherebbe. A me tocca il compito della mediazione. Rienzi, per concludere, perché poi ho la borsa, tra l'altro anticipo chiusura del più 1% a Milano. Per concludere, il fatto che le ferrovie mettono comunque 350.000 biglietti dell'alta velocità al mese, scontatissimi, dal 15 se prenoti una settimana prima al 30% se prenoti due settimane prime, nell'ipotesi del pensionato, della casalinga, lì c'è un vantaggio. 48 euro a quel punto diventa un prezzo, diciamolo, più che accettabile per andare sull'alta velocità. Ti tocca prenotarlo due settimane prima. A parte che queste promozioni sono all'inizio, poi le tolgono come è sempre stato. Beh, appena garantito lo Battisti. Quanta percentuale di passeggeri può avere la certezza di partire due settimane prima, il giorno esatto, all'ora esatta, sapendo che se prenota e per un caso qualsiasi, un malessere, un altro problema, non può partire, perde fino all'ultimo euro. Quindi pensate che diamine di promozione è questa, cioè non ti restituiscono nemmeno un centesimo. E non è vero che i treni intercity non sono pieni, è una bugia sonora. Sono affollatissimi e sono sempre sporchi con i bagni inutilizzabili e quant'altro. Sì, ecco, quindi se qualcuno non ci va è perché non vuole soffrire, non perché non vuole viaggiare due ore in più. E poi voi avete aumentato il tempo di percorrenza degli Intercity apposta, perché prima l'Intercity, il Palermo-Roma, ci metteva lo stesso tempo che ci mette adesso l'Eurostar. Invece voi l'avete rallentato, perché voi state facendo questa politica di spostare i passeggeri sui treni veloci. Punto. No, noi come Radio 24 al massimo facciamo la politica di spostare i passeggeri sulle auto perché ci ascoltano, però è una battuta. No, io vorrei concludere su una cosa. Allora, sono d'accordo che la qualità, lo dicevamo prima con il dottor Battisti, del servizio sugli Intercity lo sta spesso lascia desiderare, lo dico per esperienza, sul fatto che i biglietti, per ora ci sono le promozioni, sono 350.000 al mese, non si capisce perché dovrebbero venire meno, sul fatto che praticamente il treno debba essere, il servizio non debba essere pagato. Le ho detto, Rienzi, quello che penso, il servizio va pagato, quindi mi lasci dire che obiettivamente se uno ci mette più tempo, allora può anche avere tempo per prenotare il biglietto due settimane prima, cioè non è che uno può avere tutto. Questo vale anche per gli aerei, se io prendo Milano-Roma all'ultimo minuto lo pago tariffa massima, se riesco a prenderlo prima due settimane lo pago tariffa minima, se però perdo l'aereo perdo tutto il biglietto. Su questo, diciamo, mi sembra non ci siano delle grosse disquisizioni. Grazie comunque a Gianfranco Battisti, direttore della Media Lunga Percorrenza di Trenitalia, responsabile dell'alta velocità, a Carlo Rienzi, presidente del Codacons. minuti, parliamo adesso di borsa, lo dico a chi scrive al 349-238-6666 sul tema dei biglietti. Vi ritorneremo, biglietti ferroviari, vi ritorneremo, e ripeto, inutile vederla o bianca o nera. Comunque più 1% alla fine Milano, più 0,70 a Parigi, più 0,80 a Francoforte, più 1% Londra, e in America, che adesso è un po' più robusta quanto a rialzo, più 0,7 sul Nasdaq, più 0,3% sul Dow Jones. Tra i titoli migliori, ovviamente a maggiore capitalizzazione, citiamo Bulgari, più 3,88, e qui continua a vantaggiarsi della debolezza dell'euro e della forza del dollaro. Euro su dollaro a 1,4636, tra l'altro. A2A più 2,4, Saipem più 2,3, Buzzi Unicem più 2,2, CIR più 2%, come ST Microelectronics, Luxottica più 1,90, anche qui dollaro forte aiuta, Unipol più 1,80 come Mediobanca, l'1,7 rialzo delle Generali e della Popolare di Milano, Tenaris più 1,6 come Campari, Exor ed Eni 1,5%, Italcementi più 1,3, Mediaset più 1,2 come Fiat, l'1% è rialzo di Intesa San Paolo. Chi ha perso? Prismian meno 0,80, Ansaldo meno 0,1, i migliori e i peggiori. In assoluto il miglior titolo EMS più 8,8 e poi poco altro. Amplifon più 6,70, Sogefi più 6,5. Ancora il peggiore invece Italis meno 9,4, continua ad andare male Italis. Mono TV meno 6%. Green Vision, meno 5,7%. Come sempre Radio Colli, Sole 24 Ore per il commento. Livia Zancaner, un ritorno felice, buonasera. Buonasera. Allora Livia, Bulgari e Luxottica, possiamo chiudere il commento attribuendolo all'euro debole, al dollaro forte. Di nuovo in evidenza Buzzi Unici e Mittal Cementi, costruzioni quindi. Sì, allora oggi è andato bene il settore delle costruzioni, che ha guadagnato quasi un punto percentuale, quindi Buzzi Unicem è stata una delle migliori, ha guadagnato il 2,2%, mentre Italcementi ha beneficiato anche del giudizio favorevole della banca d'affari Morgan Stanley, che ha alzato appunto la raccomandazione sul titolo a Equal White con prezzo obiettivo a 10,7 euro. Inoltre, secondo quanto commentato nelle sale operative, il settore ha risentito favorevolmente della ripresa registrata nel mercato immobiliare a livello internazionale nelle ultime settimane. E questo sui titoli legati alle costruzioni. Bene anche alcuni settori, penso al comparto auto, Fiat più 1,2%, torna sopra i 10 euro per azione. Qui c'è una notizia che riguarda Ford soprattutto. Sì, allora Ford ha comunicato immatricolazione in salita a novembre in Europa del 20% rispetto all'anno precedente, e poi vi è stata anche la notizia che è relativa alla giapponese Toyota, che attiverà da marzo dei turni di notte nello stabilimento canadese. Per quanto riguarda Fiat è andato bene anche il socio di riferimento Exor, che ha guadagnato l'1,52%, che secondo ad alcuni operatori di Piazza Affari tratta a sconto rispetto al mercato. Ancora Livia, i petroliferi oggi in evidenza, Eni comunque più 1,5 sopra i 17 euro per azione, nonostante il petrolio sia debole. Sì, il petrolio tratta ancora oggi sotto i 70 dollari al barile, ma il comparto ha chiuso positivamente la seduta e sono arrivate delle novità sul settore petrolifero. ExxonMobil ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di X2 Energy con un'operazione da 41 miliardi di dollari. Inoltre anche la banca d'affari Barclays si è espressa sul settore, mostrando però dei giudizi contrastati, nel senso che Barclays appunto ha alzato il prezzo obiettivo su Eni e sulle due società inglesi, quindi BG Group e BP Petroleum, ma ha tagliato la raccomandazione sulle azioni della francese Total. Ancora, tra chi ha perso, dicevo oggi per fortuna pochi titoli, Prysmian meno 0,8%, qui ci sono delle indiscrezioni più che delle notizie. Sì, allora per quanto riguarda Prysmian, allora in realtà oggi il titolo è stato colpito dalle prese di beneficio dopo la buona intonazione della scorsa settimana. E allora la scorsa settimana erano circolate delle indiscrezioni relative all'arrivo di un prestito da 800 milioni di euro con l'obiettivo di estendere la scadenza dei debiti contratti nel 2007 e che scadono nel 2012. Quindi dopo la buona intonazione della scorsa settimana, oggi gli investitori comunque hanno preferito usare cautela anche in attesa di avere ulteriori notizie sulla situazione economica del Middle East. Infatti la società guidata da Valerio Battista è molto attiva nel paese, ma soprattutto in Qatar, non a Dubai. E con questo mi alzi una palla non da poco, perché nella seconda ora del programma ci occuperemo invece di Dubai e quindi del Medio Oriente. Abu Dhabi è tornata per la seconda volta nell'ultimo anno ad aiutare Dubai, e il fatto che abbia messo 10 miliardi complessivamente di dollari nei conti di Dubai ha permesso all'attività di Dubai oggi di annunciare che pagheranno tutto il debito che scadeva oggi, per cui non avevano molto altro tempo, da 4 miliardi e 100 milioni di dollari del gigante immobiliare di Dubai, quello che era in estrema difficoltà per non dire altro, Nakheel. Abu Dhabi si sta comprando Dubai, ma il mercato festeggia perché ha chiuso la borsa di Dubai con un più 10% e Abu Dhabi più 8%, bene oggi anche la Grecia più 2%. Grazie Livia Zancaner, Radio Colli, Sole 24 Ore. Minuti, seconda parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora i temi di questa seconda ora di Focus Economia, dopo aver parlato dei rincari e del servizio dell'alta velocità e aver commentato la borsa, ricordo chiusura alla fine buona, più 1% per Milano, più 0,7% Parigi, 0,8% Francoforte e più 1% anche Londra, con l'America che sta guadagnando o meno lo 0,28% per la precisione. Adesso ci occuperemo dei dati macroeconomici usciti oggi in Europa, si chiamano soprattutto produzione industriale e disoccupazione, e poi di questo salvataggio in extremis arrivato a Dubai, ricordate la vicenda che ha fatto tremare per alcuni giorni le borse di tutto il mondo, arrivato dalla cugina Abu Dhabi e quindi oggi è riuscita a ripagare il debito. Partiamo dall'inizio, andiamo con ordine però, dati economici europei, disoccupazione e produzione industriale. Allora, sul fronte della disoccupazione, la crescita purtroppo si registra anche nel mese di ottobre a livello europeo, persi 1 milione di posti di lavoro, di cui 700.000 solo nell'area euro, il dato di oggi di Eurostat, con un calo medio dell'occupazione dello 0,5%. E nel terzo trimestre anche l'Italia ha segnato un calo identico, meno 0,5% tra luglio e settembre negli occupati, un po' meglio la Francia, meno 0,2%, la Germania meno 0,1%, il peggior paese resta in Europa invece la Spagna, 1,5% di calo nell'occupazione nel terzo trimestre. È chiaro che il calo è raffrontato al secondo trimestre quanto occupati. Anche l'OCSE conferma che la disoccupazione continua a salire ad ottobre all'8,8% nei paesi dell'area OCSE, con un 2,3% in più rispetto a un anno prima, rispetto a ottobre del 2008. In Italia è anch'essa in salita, a ottobre 8% disoccupati contro il 7,8% di settembre. Concentriamoci adesso sull'Italia in senso stretto, perché se da un lato la Banca d'Italia ha lanciato un allarme sul debito pubblico che continua a crescere, ha toccato i 1.800 miliardi ad ottobre contro i 1.786 miliardi di settembre, quindi 24 miliardi in più, crescono per fortuna anche le entrate tributarie, 28,4 miliardi, ma aumenta, sottolinea sempre la Banca d'Italia, il numero di sofferenze delle famiglie sui mutui. Nel terzo trimestre 2009 le famiglie in sofferenza, quindi in difficoltà con il pagamento del mutuo per la casa, sono state l'1,5% di tutte le famiglie consumatrici, quasi il doppio rispetto a un anno prima, perché nello stesso periodo del 2008 erano solo lo 0,9. La produzione industriale. Allora, è tornata a scendere nell'area euro la produzione dell'industria manifatturiera dopo 6 mesi di continua crescita, meno 0,6% ottobre. E tra l'altro, per trovare un segno in meno bisognava tornare appunto ad aprile del 2009. I paesi dove questo ha avuto un impatto peggiore si chiamano Germania e Francia. È brusca la frenata in Germania, mese su mese meno 1,8%, e anche la Francia quasi 1% di frenata a ottobre su settembre. L'Italia bene, bene, perché nonostante il 5% di calo tra settembre e agosto, a ottobre c'è stato un più 0,5% nella produzione industriale rispetto a settembre. Complessivamente su base annua il calo è dell'11%. E poi l'ultima notizia che riguarda sempre il sistema Italia. I dati Unioncamere diffusi durante il fine settimana indicano che nei primi 11 mesi dell'anno il numero comunque di imprese in questo paese è cresciuto e ha superato la quota 6 milioni. 26.122 imprese in più, la parte del leone l'hanno fatta due regioni, Lombardia e Lazio, che compensano e tra l'altro le società di capitali hanno compensato il calo delle ditte individuali, che sono 22.600 ditte individuali sono scomparse, ma il saldo resta positivo. Sentiamo allora il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. Unioncamere raggruppa tutte le camere di commercio italiane, al microfono della nostra Anna Marino. La piccola impresa è quella che ha sofferto di più perché ha uno straordinario numero, ma anche in questo momento di difficoltà è anche quella che soffre, nonostante la capacità dei propri imprenditori di mettere coraggiosamente anche a disposizione i propri capitali, la propria esperienza. È vero che ci sono state delle defezioni, in modo particolare nella piccola, ma è nata comunque la consapevolezza all'interno dell'imprenditoria che magari le società di capitali, che sono invece aumentate, sta dimostrando la qualità anche dell'impresa italiana stessa e la capacità di saper rispondere con delle ingenti innovazioni anche dell'impresa alle sfide del mercato. In termini di numeri, come si possono calcolare questa crescita e questo punto debole? Il numero complessivo delle imprese tutto sommato in questi mesi sta ricominciando a crescere. Da gennaio ad oggi sono comunque numericamente cresciute il numero delle imprese, sono circa 26.000 ed erano diversi trimestri che c'era una difficoltà oramai palese, c'erano dei numeri che erano sempre in negativo, quindi tutto sommato vuol dire che all'interno del paese, all'interno della società civile si continua a credere nelle imprese. Il punto di sofferenza oggi lo sta in qualche modo nell'ambito di alcuni settori economici, il manifatturiero in questo momento segna un attimino il passo. E le ditte individuali? Soffrono perché ce ne sono tanti, quasi 3,5 milioni all'interno del nostro paese. E tutto sommato, anche se c'è qualche numero che sembra grande, perché qualche numero di qualche decina di migliaia che chiude, sembra con preoccupazione di vedere un mondo che crolla, ma dobbiamo ricordarci che in Italia sono 3,5 milioni, e quindi 10 o 20 mila che in qualche modo per un momento con generi di difficoltà vengono meno, non è un dato che deve sconvolgerci. Che cosa chiedete per far fronte ulteriormente alla crisi? Come diceva un tempo Napoleone, per fare la guerra ci va l'argiame, quindi ci vanno anche risorse economiche adeguate e in questo momento il sistema bancario non accompagna questo processo. Le valutazioni di Basilea 2 sono assolutamente controproducenti nei confronti di una impresa italiana che è storicamente sottocapitalizzata, ma dietro questa sottocapitalizzazione, con i dati crudi di Basilea 2, non tiene conto della storia di un'impresa, della storia di una famiglia, della storia di relazioni importanti spese all'interno di una società. E al governo che cosa chiedete? Chiediamo quell'attenzione che mi pare che in questi giorni, proprio anche grazie allo Small Business Act, e per la prima volta il governo italiano è stato quello che ha recepito questi processi, di dare quell'attenzione che probabilmente fino ad oggi non è avvenuta a quella piccola e media impresa italiana, perché non si era forse tenuta nel debito conto. Basta anche solo verificare i dati occupazionali. La piccola impresa è quella che in questo periodo disastroso ha perso meno la metà percentuale degli operatori economici che invece ha preso la grande impresa, quelle sopra i 500 dipendenti. Riforme e federalismo sono nell'agenda? Il federalismo deve servire a far accelerare chi va piano e non a fermare chi va spedito. C'è il timore che il federalismo però non possa portare ulteriore duplicazione, di non semplificazione, di burocratizzazione. Ecco, forse questo è uno degli aspetti che noi temiamo. Allora, staremo a vedere, è chiaro anche il ragionamento quanto a Basilea 2, alcuni di voi ci chiedono al 349-238-6666 di cosa si tratta, è il criterio adottato a livello europeo con cui le banche, diciamo che dovrebbe servire alle banche per concedere credito alle imprese e comunque serve anche le banche per avere una patrimonializzazione a seconda dei prestiti che vengono erogati. La critica che viene mossa è che in questo momento, con la crisi che c'è in giro, utilizzare una cosa così rigida, fatta a griglie, come quella di Basilea 2 e gli IAS, significa non tener conto del momento, del presente, vivere in un mondo così teorico, fatto dai burocrati, e non giudicare un'impresa, al di là delle difficoltà che può avere in questo momento di contingenza difficile, delle prospettive che ha questa impresa. Da più parti si è chiesto che in questo periodo venisse sospeso il criterio di Basilea 2, a nostro avviso un po' troppo quantitativo e molto molto spersonalizzante rispetto all'impresa, all'imprenditore, che hanno facce, anime, vissuti, percorsi, famiglie, dipendenti. Ultima parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, è arrivata Abu Dhabi, la vicina, snobbata prima, abbiamo detto più volte, considerata un po' troppo integralista, un po' troppo vecchia rispetto alla brillante glamour Dubai. È arrivata Abu Dhabi, dicevo, a salvare per la seconda volta in meno un anno, a salvare i beni, i gioielli di Dubai. Perché? Perché oggi scadeva il debito che rischiava di far saltare per aria l'Emirato, quello della società, del gigante immobiliare, la Nakheel, che è la divisione immobiliare di Dubai World, 4 miliardi e 100 milioni di dollari in scadenza oggi, e li ha pagati Abu Dhabi dando un prestito da 10 miliardi a Dubai. Reagisce subito bene la borsa, stamattina ha chiuso con un più 10% Dubai e un più 8% Abu Dhabi. Vorrei capire se quindi di fatto il Dubai è stato come Emirato commissariato e salvato da un'OPA, cioè acquistato dal vicino Abu Dhabi, poi anche dagli altri Emirati. Lo facciamo con l'avvocato Antonello Martinez, che è dello studio Martinez e Nove Baci, ma soprattutto fa l'intermediario da un po' di tempo con diversi imprenditori italiani e la Limitless Abu Dhabi, che praticamente è il fondo sovrano UP Line, riconducibile al fondo sovrano di Abu Dhabi. Avvocato, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, in questi prossimi minuti vorrei capire: lei ritiene che con questa operazione, visto che lei fa la spola costantemente tra l'Italia e Abu Dhabi, Dubai, Riyadh, sia stata commissariata Dubai e il pericolo scacciato? Guardi, io come sono stato l'unica voce controtendenza nella bufera, bisogna conoscere bene le cose, e probabilmente c'è stata veramente, a mio giudizio, è stato fatto veramente un tornado su una cosa che non poteva che essere come è stata. Tenga presente semplicemente alcune considerazioni. Sì. Dubai, dei paesi degli Emirati Arabi, è l'unica che non ha petrolio. Dubai ha una popolazione indigena, cioè arabi, che è il 7%, quindi vuol dire che 93 persone su 100 sono forestieri. E Dubai, nelle logiche del grandissimo progetto di Abu Dhabi e del presidente, persona illuminata assolutamente, poco beduino ma molto illuminato, riveste un ruolo ben preciso, che è quello del turismo, che è quello dell'essere la punta. No, ma tutto questo è chiaro, che diciamo che Dubai avesse una sua specificità rispetto agli altri Emirati che hanno petrolio, è chiaro. Ma io vorrei capire, con questa operazione di Abu Dhabi, secondo lei la vicenda è chiusa? Perché che non ci fosse notizia, me lo lasci dire, non è vero. Insomma, stava per saltare per aria Dubai con più di 10 miliardi di esposizione. Io dico, la notizia secondo noi c'era e l'abbiamo coperta. Vorrei capire se in questo modo, secondo lei, l'operazione, con questa operazione, no, il timore grosso si è allontanato. A mio giudizio non c'è sinceramente io non vedo timori. Vedo timori. Certamente Dubai sarà asfittica anche nei prossimi mesi, sicuramente asfittica, perché è in mano ad Abu Dhabi, e Abu Dhabi gli dà i soldi col contagocce. Le ricordo, come diceva lei giustamente in presentazione della cosa, che a febbraio sono stati dati 28 miliardi di dollari, è stata peraltro portati via due ospedali e il gioiello di famiglia che era l'Emirates, che ormai è sotto il controllo totale di Abu Dhabi, quindi la compagnia aerea, certo. E quindi questo è allora, conoscendo bene le usanze e quello che stanno facendo all'interno dei paesi del Golfo, è evidente che sia una radiografia che non è una radiografia superficiale, ma è un attack molto profonda, che mette in chiaro quella che è la loro politica, che io devo dire, se noi occidentali avessimo un po' meno di spocchia e andassimo a vedere quello che stanno facendo, probabilmente riusciremo a fare delle cose molto migliori. Ecco, su questo c'è l'ultima domanda che ho per lei, e cioè, fermo restando che ormai Dubai come autonomia non esiste più, è stata commissariata da Abu Dhabi, con una grossa rivincita da parte di un emirato considerato appunto il cugino povero, il cugino, mi passi il termine, sfigato rispetto alla glamour Dubai, perché 28 miliardi più 10 fanno 40 miliardi di salvataggio, casa mia. No, un attimo, vorrei capire le possibilità per le imprese italiane invece nell'area, perché veniamo da recenti missioni governative e confindustriali proprio nell'area degli Emirati. Al di là di Dubai, lei che rappresenta tutto un insieme di imprese italiane che operano le 3F Scusa dottore, io rappresento la Khalif Zayed Al Nahyan, quindi rappresento gli Emirati Arabi, esatto. non le imprese italiane. Aiuta le imprese italiane a entrare in contatto. Assolutamente. Le 3F per cui gli arabi vanno pazzi, vi prego di non far battute con i messaggi, cioè food, fashion e football, si confermano? Assolutamente, e tenga presente che un altro elemento è che stanno comprando mezza Italia. Stanno comprando mezza Italia, pochi se ne accorgono, ma mezza Italia sta andando. Per esempio? Alcune cose non le posso ovviamente dire perché sono in corso di. Ma hanno preso di tutto di più, mi creda, di tutto di più. E per quello che riguarda invece l'interesse delle imprese italiane verso gli Emirati, complessivamente dati? Guardi, la branch estera della principale società di Dubai World, che è Limitless, l'immobiliare, la branch estera è già di proprietà assoluta di Abu Dhabi e sta andando a costruire una città che si chiama Al Wasl, che già fanno gli scavi, che mi hanno chiesto di fare una cordata di circa 5, 6, 700 imprese italiane perché non vogliono altri che siano italiani. Questa è una città che viene edificata di 250.000 persone ex novo. In Arabia Saudita, a 15 km da Riyadh e a 15 km dall'aeroporto. Quindi da che io capisco che, a parte Dubai, che a questo punto diventa un giocattolo per businessmen o per ricchi un po' viziati, tutto il resto degli Emirati continua a godere di ottima salute, e su questo ringrazio. Poi l'operazione di oggi era importante dal punto di vista del mercato, grazie all'avvocato Antonello Martini. Sa una cosa, visto che non le vuole dare lei, le do io. Praticamente le società controllate da gruppi provenienti dai paesi del Golfo in Italia sono 50, questo diciamo dato di qualche mese fa, 9 miliardi il fatturato totale delle società italiane controllate o partecipate dai paesi del Golfo, e tra l'altro ci sono 21.000 società italiane, società in Italia degli Emirati Arabi Uniti e del Kuwait. Grazie all'avvocato Antonello Martinez, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.